Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di automobili e parliamo in particolare di automobili italiana, Made in Torino, è il titolo di un libro scritto da Giorgio Barba Navaretti. Buonasera Barba Navaretti. Buonasera, buonasera a voi. Insieme a Gianmarco Ottaviano e appunto parla di Fiat Chrysler e il futuro dell'industria. Giorgio Barba Navaretti insegna economia all'Università degli Studi di Milano e Gianmarco Ottaviano insegna economia alla London School of Economics di Londra, ovviamente. Ecco, un libro che parla degli ultimi avvenimenti del settore automobilistico, di questa grande fusione che ha offerto anche grandi speranze per il futuro della Fiat, ne parla sotto un profilo essenzialmente industriale, un profilo produttivo, mette in secondo piano proprio per scelta i temi finanziari e quelli strettamente tecnico-motoristici, ma il profilo produttivo è importante soprattutto per l'economia di un paese. Allora, Giorgio Barba Navaretti, a che punto è questa fusione Fiat Chrysler e quali sono le prospettive attuali? Ma diciamo che noi abbiamo cercato di guardare a quello che è stato il processo di integrazione globale di Fiat Chrysler e abbiamo osservato che sin dagli inizi di questa operazione era stato fatto un disegno di integrazione industriale profonda tra le attività, diciamo, europee e le attività americane. Questo non è semplice, perché fare un'integrazione industriale profonda significa, per esempio, mettere in comune delle tecnologie, mettere in comune le architetture con cui si costruiscono le automobili, significa mettere in comune delle procedure di management che funzionano nello stesso modo sia in America che in Italia, significa organizzare le fabbriche nello stesso modo, e questo sin dall'inizio è un processo appunto unitario che è stato organizzato in questa operazione. E quindi quando spesso si ragiona appunto sul Fiat Chrysler, l'Italia verso l'America, nel nostro paese molto spesso si vede questa operazione come quasi un'operazione di sottrazione, certo, di attività industriali dall'Italia, di un baricentro che si sposta verso l'America. In realtà quello che è successo e che noi abbiamo osservato è stata la trasformazione della Fiat in un gruppo globale, no? Quindi in un gruppo effettivamente che è uguale dappertutto, che mantiene ovviamente delle specificità nazionali per quanto riguarda certi prodotti, ma che di base ha una caratteristica globale e che parla la stessa lingua in tutto il mondo. Ecco, peraltro con un'esperienza che aveva già avuto dei fallimenti in passato. Da parte della Chrysler c'era stata la tentata fusione con la Daimler e da parte della Fiat c'era stato l'accordo con la General Motors, quindi due esperienze passate che avevano portato poi alla chiusura, al fallimento di questa esperienza. Che cosa hanno insegnato a questa nuova realtà? Non possiamo più chiamarla un'ipotesi, ma questa nuova realtà Fiat Chrysler. Beh, io credo che, diciamo, queste due esperienze fallite che lei ha citato sono un po', diciamo, riflettono a quello che è successo anche in molti altri casi e in molte altre fusioni industriali, se vogliamo. Il problema è di non volere andare fino in fondo nell'integrazione tra due mondi diversi, cioè per esempio nel caso della fusione tra Daimler e Chrysler, per quanto la Daimler avesse acquisito di fatto la Chrysler, però rimanevano due linee di management, con un management americano, un management tedesco. Quando effettivamente si è iniziato a riflettere su come integrare da un punto di vista tecnologico le due case, in realtà l'integrazione tecnologica non è mai avvenuta, no? Perché in qualche modo i tedeschi temevano che la Chrysler, che era percepita come una marca di minor qualità, diluisse un po' la validità e la forza del marchio Mercedes. Quindi insomma non c'è mai stata un'integrazione vera, mentre invece nel caso italiano, dice questa fusione italo-americana, c'è stata invece una integrazione profonda con un'unica linea di management e un unico linguaggio che è stato impostato in tutta l'azienda. Questo è un punto molto importante che molto spesso non viene percepito, ma è molto importante. Ecco, ma sotto questo profilo, e vediamo un po' il titolo di questo libro, Made in Torino, cioè come lei afferma proprio in uno di questi capitoli, l'identità tra l'automobile e la nazione a cui appartiene l'azienda che la produce è fortissima nell'immaginario collettivo. Ora, una delle problematiche che vengono a galla guardando a questa realtà è il fatto che in fondo l'Italia perde una forte industria automobilistica che viene consegnata al mercato globale. Ma io, diciamo, non la interpreterei così, nel senso che il libro ha un punto interrogativo, Made in Torino, perché la riflessione che facciamo non è tanto proviamo a dare una risposta a questa domanda, sì, no. Proviamo, il nostro è un ragionamento su quali possono essere le condizioni per cui Made in Torino, Made in Italy è ancora possibile nell'industria automobilistica e anche nell'industria più in generale, perché c'è anche una riflessione più generale dell'industria. E quello che noi troviamo è che effettivamente questa trasformazione globale mette delle premesse importanti per poter continuare a produrre automobili in Italia, nel senso che se non fosse stata fatta questa operazione di globalizzazione, se vogliamo, della Fiat attraverso l'acquisizione di Chrysler, quasi sicuramente le attività industriali italiane sarebbero state chiuse, mentre invece adesso c'è una situazione per cui c'è un nuovo piano industriale, che è un piano molto coraggioso ovviamente, eccetera, però è un piano industriale che si basa su delle fondamenta industriali che sono ragionevoli e che hanno un loro senso, no? Nel senso che faccio solo un esempio: la possibilità di produrre Alfa Romeo in Europa nell'ambito della fusione Fiat Chrysler permette anche di esportarle negli Stati Uniti attraverso la rete di distribuzione della Chrysler, e quindi apre un mercato che prima la Fiat non avrebbe avuto. Allo stesso modo, la possibilità di mettere insieme delle tecnologie sia americane che italiane permette di raggiungere delle cosiddette economie di scala, quindi dei risparmi di costo su dei volumi molto più ampi di quelli che sarebbero stati i volumi fatti solo dalla Fiat. Quindi in sostanza si impongono delle premesse proprio industriali e anche commerciali per poter rilanciare, se vogliamo, l'industria automobilistica italiana. Ecco, ma sotto questo profilo il cambiamento deve essere profondo. La Fiat negli anni ormai lontani era una fabbrica di automobili di massa, di piccole autovetture, di utilitarie a basso costo. La 500, la 600 hanno fatto l'Italia, hanno fatto il miracolo economico italiano. Ecco, adesso deve trasformarsi invece in una parte di un grande gruppo, e la parte italiana è quella di realizzare le vetture di lusso. Si è iniziato con la Maserati, si andrà sul SUV di alta gamma. Ecco, questa è veramente una grande trasformazione anche della stessa filosofia aziendale. Questa è una trasformazione effettivamente molto profonda, e in questo senso, diciamo, la scommessa è una grande scommessa rischiosa. C'è anche una dimensione di costruire in Italia una piattaforma per l'export, come si diceva prima, no? Normalmente gli impianti industriali sono fatti sono vicini ai mercati in cui vendono le automobili, per cui fanno le automobili specifiche per quel mercato. No, qui si dice facciamo delle automobili che saranno delle automobili che riusciremo a vendere dall'Italia in tutto il mondo. Quindi è veramente un cambiamento di filosofia, però credo che rifletta un po' quello che è il destino, se vogliamo, dell'industria manifatturiera italiana. Cioè, se vogliamo competere con i paesi emergenti, questo vale in tutti i settori, anche nelle automobili, dobbiamo, in qualche modo, le imprese devono porsi su dei segmenti che sono dei segmenti elevati, dove c'è un forte contenuto di tecnologia, un forte contenuto di qualità, e dove di base l'incidenza del costo del lavoro si riduce, ma non tanto perché vengono peggiorate le condizioni del lavoro o perché le macchine, i robot sostituiscono completamente il lavoro, semplicemente perché il valore aggiunto di queste automobili e la qualità intrinseca aumenta, e quindi l'incidenza del costo del lavoro è più bassa, e quindi è evidente che la competizione dei paesi emergenti diventa morde meno, no, in questo caso. Quindi diciamo che è una trasformazione certamente dell'azienda, ma è una trasformazione che dovrebbe riguardare l'industria, e sta riguardando nei fatti l'industria nazionale in senso lato. Ecco, proprio questa ottica sull'industria nazionale, vorrei, avviandoci alla conclusione, guardare un attimo alle trasformazioni che stanno avvenendo. In fondo, anche questa vicenda dimostra come quello che poteva essere chiamato il post-industriale è comunque ancora industriale, cioè il futuro di un'economia come quella italiana ha ancora delle grandi opportunità sul fronte della manifattura, dell'industria, ovviamente in senso moderno, in senso innovativo, in senso capace di guardare alla globalità. Però ecco, viene un po' superato il mito di andare verso una società unicamente di servizi. La manifattura resta comunque fondamentale. La manifattura resta fondamentale, naturalmente incorpora molti più servizi di quello che si faceva un tempo, perché, come dicevamo prima, la creazione di valore del prodotto industriale vuol dire che ci deve essere più tecnologia, più ricerca, no? E quindi questi sono servizi che vengono incorporati nell'industria, ma che permettono di aumentarne il valore. Quindi direi che è una integrazione di successo proprio tra industria e servizi che garantisce, se vogliamo, il futuro del manifatturiero. Certamente non credo credo che l'industria, il destino dell'industria manifatturiera, delle economie mature sia quella di venire trasferita o delocalizzata completamente verso le economie emergenti. Ecco, e un ruolo importante in questa prospettiva è anche quello di chi disegna un po' gli scenari, quindi dei governi. Il penultimo capitolo proprio si chiude richiamando al fatto che il governo può fare moltissimo per rafforzare il contesto in cui le aziende vivono, sia con interventi mirati al territorio, sia riformando il quadro legislativo e burocratico in cui le imprese operano. Ecco, il contesto italiano è un contesto ancora di difficoltà in cui le imprese hanno grandi potenzialità che non riescono a esprimere. È anche questo il suo giudizio, Edoardo Navaretti. Sì, sì, questo è anche il mio giudizio, nel senso che chiaramente le riforme strutturali di cui il nostro paese ha bisogno per riprendere a crescere sono soprattutto delle riforme di contesto che permettono alle imprese di operare in modo efficiente. Non stiamo parlando di incentivi finanziari o monetari, non stiamo parlando di un supporto diretto, di un intervento diretto dello Stato nell'azienda, stiamo parlando di un contesto generale in cui le imprese possono operare. Credo che qualunque tipo di politica economica e anche di politica industriale può funzionare solo se è in grado di dare alle imprese la possibilità di competere sul mercato globale. Noi credo che su questo in Italia dobbiamo fare attenzione, perché molte volte confondiamo la politica economica di sostegno e di welfare, se vogliamo, a delle realtà che sono in difficoltà senza veramente una prospettiva futura, con quello che invece devono essere interventi per facilitare la crescita e la competitività delle imprese del futuro. Dobbiamo distinguere competitività e welfare. Per quel che riguarda la competitività del paese, i governi devono porre delle condizioni di base in cui le imprese possono operare. Nel caso Fiat questo diventa molto importante, perché chiaramente questa transizione verso il polo del lusso è, appunto, come dicevamo prima, una scommessa un po' per tutto il sistema industriale del paese. Certo, ci sono poi di una parte dell'industria, una parte dei lavoratori che non ce la fanno a spostarsi verso questo salto di qualità, e il governo, il settore pubblico deve tenerne conto, deve pensare come gestire questo problema. Secondo me abbiamo una fase di transizione difficile per l'industria italiana nei prossimi 10 anni, in cui molta forza lavoro e molte attività che escono dal mercato effettivamente non facilmente ritrovano una posizione altrove. Anche la crisi è un elemento che ha portato indubbiamente a una scrematura delle industrie. Speriamo che chi ha resistito alla crisi sappia crescere, sappia sfruttare le opportunità, e anche, appunto, il settore dell'auto possa trovare una sua dimensione, certamente diversa dal passato, ma una dimensione importante per il paese. Grazie a Giorgio Barba Navaretti, docente di economia all'Università di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, che è stato con noi questa sera, e abbiamo parlato del suo libro, scritto con Gianmarco Ottaviano, Made in Torino, Fiat Chrysler e il futuro dell'industria, edito dal Mulino. Sono 112 pagine per 11 euro. Grazie anche a Paolo Corleoni in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.